caso curato dalla ferocia del cane, e questo gemello assomiglia tanto all'altro, però è diverso, è uno sguardo diverso, una prospettiva diversa, non è soltanto una traduzione del libro che abbiamo già pubblicato e abbiamo pubblicato e tradotto adesso in italiano, no, sono dei testi tradotti, ok, però per gran parte sono testi nuovi scelti insieme a Ferruccio del Carro con Paolo Valente della letteratura italiana. Cioè l'attuale c'è, che è sempre stato un po' di crocevia da nord e sud, e tanti stimati attori, scrittori che sono passati mi hanno lasciato anche delle tracce letterarie. Questo libro adesso raccoglie sia le tracce di scrittori che sono venuti dal sud che quelli venuti dal nord, e poi ci sono anche delle eccezioni di scrittori che sono venuti anche da altre parti. Sì, beh, è un libro dedicato non soltanto a turisti, anche se è diciamo composto come una guida, è forse più un'antologia per tutti quanti noi, anche da scoprire questa nostra terra fra lo sguardo di quelli che sono venuti da di fuori, che è sempre un po' diverso forse da quello interno, qualche volta un po' più critico, qualche volta anche un po' più diciamo dolce, perché vedono quelle montagne, quel paesaggio e tanti e sono anche affascinati. Per quello adesso do la parola ai due autori o curatori del libro che hanno raccolto questi brani, che è stato veramente un gran lavoro di ricerca, un ringraziamento da parte mia per tutto questo lavoro che avete fatto, e beh, presentarvi Paolo Valente, direttore della Caritas e scrittore noto, visto che ha pubblicato un paio di libri già sull'attuale, cioè soprattutto anche sul Merano, naranese, anche il Ferruccio delle Cave, che anche lui autore e editore di tanti libri e antologie che parlano della letteratura altoatesina, perciò tutti quanti sono proprio, come dire, perfetti per questo lavoro, visto che hanno già pubblicato tanto su questa tematica. Bene, ringrazio la Biblioteca Flavio Augusto per l'ospitalità e dall'altra parte anche la ripartizione di cultura italiana che ci ha dato un sostegno per pubblicare questo libro, visto che di lavoro ce n'è stato tanto, una volta per la ricerca e dall'altra parte anche per la veste grafica, visto che abbiamo fatto anche una vasta ricerca iconografica. Vi ringrazio. Adesso provo qui. Si sente? Sì. Buonasera. E ringrazio già adesso quelli che hanno avuto il tempo di venire, l'interesse a questa presentazione, nonché ovviamente alla dottoressa Marcon, che non solo ha salutato nelle veci della direttrice, ma anche si è studiata un po' dei testi a scelta che noi presenteremo e che lei leggerà poi. Grazie per il suo impegno. Sì, Thomas Cargo ha sottolineato alcune cose che riguardano la nascita di questo volume Alto Adige e Sud Tirol, una guida letteraria. L'idea di una topografia letteraria del territorio, e ci sono topografie letterarie in veste libristica come guide culturali nonché turistiche delle grandi città, soprattutto Venezia, Roma, Milano, Firenze, Napoli, eccetera, europee e anche mondiali, meno si trovano delle descrizioni antologiche collegate con commenti e sottofondi culturali, socioculturali e politici di territori vasti come non quello nostro, ma anche più vasti. Ci sono, per quello che riguarda il nostro territorio, questa è un po' l'unica impronta, se non quella su Merano, che io ho scritto nell'88 già, e così voi capite che già nell'88 è nata un po' questa idea di presentare dei testi di scrittori, scrittrici, a quel tempo soprattutto di lingua tedesca, che varcavano le Alpi e si fermavano meno qui, ma avevano come obiettivo soprattutto l'Italia e la conoscenza della cultura italiana. Quando noi abbiamo pubblicato nel 2011 la guida in lingua tedesca, era una scelta molto ristretta di più di 200 referti che io avevo archiviato un po', leggendo di qua e leggendo di là, di testimonianze letterarie sul nostro territorio. Quando poi abbiamo deciso di presentare una guida letteraria in italiano, ci è subito parso che si debba fare un nuovo libro, perché non poteva essere una, come anche Thomas ha detto prima, una mera traduzione della già esistente guida letteraria. Si potevano sì scegliere, ed è stato anche fatto, scegliere degli autori doc che sono anche molto interessanti per i lettori italiani, con le traduzioni anche standard che si trovano, e quelle non trovate, ci sono traduzioni di Paolo Valente, bellissime traduzioni di testi che non abbiamo trovato nelle pubblicazioni italiane. Ma poi c'era da fare un discorso del tutto nuovo, e questo discorso lo ha affrontato Paolo Valente, che nelle sue grandi conoscenze della letteratura italiana, non solo storica ma anche contemporanea o dell'età moderna e anche contemporanea, ha fatto una ricerca e ha trovato una bella schiera di autori che già si presentano in copertina, alcuni di questi, ma poi troverete leggendo anche nel libro. Ed è venuto fuori una guida che può essere anche un approccio del tutto diverso a questo territorio. Non solo può esserlo, lo sarà, perché le differenze di visione verso il territorio degli autori e le autrici di lingua tedesca, siano questi tedeschi, austriaci o anche svizzeri, o anche altri delle zone del nord come Henrik Ibsen, che viene dalla Norvegia, o altri, sono del tutto diverse da quelli degli autori italiani, che percorrono un tragitto che a loro non così conosciuto, eccetto alcuni nomi come la Melandri, per esempio, che conosce benissimo il territorio, ma che varcano questo territorio con una visione del tutto diversa, non aspettandosi delle bellezze naturali in primo luogo, ma soprattutto un tutt'altro discorso, che è quello culturale, politico, degli usi e dei costumi diversi di un territorio che è territorio statale italiano, però diverso a loro. E qui subentra un'ottica del tutto nuova. E così, leggendo la guida, si incontrano proprio queste differenze di visione. Il tedesco che viene da nord e già sente di essere verso, già quasi in ambito italiano, ovviamente non del tutto, ma poi andando oltre, come il Goethe, di cui parleremo dopo, no? Per esempio. Ecco, questo era importante dirlo, e adesso passo subito la parola a Paolo, che darà un suo sottofondo a questo discorso di questa guida. Grazie. Beh, Ferruccio mi ha descritto come un super esperto di letteratura. In realtà io ho incontrato, ho cercato anche quello che hanno scritto letterati, scrittori, poeti su questa terra, principalmente nel corso di ricerche di carattere storico, perché anche quanto scrivono autori che possono venire da altri paesi come la Germania o dall'Italia, rispetto a questo territorio, fa parte dei documenti da prendere in mano per ricostruirne la storia, proprio perché molto spesso chi viene dall'esterno nota degli aspetti che noi che siamo qui facciamo fatica a notare, perché abbiamo delle categorie ormai consolidate nelle quali facciamo entrare la nostra realtà, e siamo un po' pigri nel cambiare prospettiva. Ecco, uno che viene da fuori offre una diversa prospettiva, non è detto che sia più vera o meno vera della nostra, però è altra, e questo ci aiuta sicuramente a farci un'idea più completa anche della nostra realtà. Questa guida accompagna il lettore lungo un itinerario, e questo itinerario ha un senso. Lo potrei descrivere con l'espressione dal confine alla città sul confine. Perché? Perché parte dal confine del Brennero, che è un confine geografico, da un secolo anche un confine politico, è anche un confine simbolico. Spesso sentiamo parlare del Brennero, abbiamo sentito parlare negli ultimi anni la chiusura del Brennero e tutto quello che è legato a questa immagine e tutti i sentimenti che suscita anche questa immagine. E questo percorso scende naturalmente dalla Val di Sarco, passa per la Valpusteria, la Ladinia, arriva a Bolzano come a una tappa, si sofferma in Bassa Tesina, nell'Oltradige, e poi risale verso Merano, fa tappa in Val Venosta e in Val Passiria, e poi appunto si conclude proprio a Merano. Merano che io, come alcuni sanno, per diversi motivi definisco la città sul confine. Il Brennero, simbolo del confine, cioè di un qualcosa che unisce o divide, è cerniera e è muro. E Merano, città sul confine ma anche città al centro. Merano è l'antica capitale del Tirolo e è confine nel senso che è anche un luogo d'incontro, città ecumenica e cosmopolita. Come diceva Ferruccio, ci sono diverse prospettive, soprattutto la differenza più evidente, ma non è l'unica, è proprio tra chi viene in questa terra da nord e chi viene da sud. Naturalmente chi viene da nord nota subito il sole, chi viene da sud nota subito la neve. Uno di questi personaggi, Henrik Ibsen, che ha già citato Ferruccio, il 15 settembre del 1876, scendendo da nord, scrive: la regione qui al confine con l'Italia è meravigliosamente bella e il clima è il più gradevole che si possa immaginare. Un altro personaggio, molto meno conosciuto, anzi direi del tutto sconosciuto, si chiama Giovanni De Castro, è nato a Padova nel 1837, morto vicino a Como nel 97, figlio di uno scrittore istriano, giornalista, scrittore, si occupa di storia e teatro, e dopo l'apertura della nuova ferrovia del Brennero percorre la via da Verona a Innsbruck. Siamo nel 1968, dunque la ferrovia è stata aperta nel 1867 e nel 69 pubblica un libro intitolato Note di una gita autunnale nel Trentino e nel Tirolo. Come dicevo, mentre chi scende da nord varcando il Brennero si accorge delle tracce di sud, chi sale dall'Italia nota invece il progressivo estinguersi della vegetazione meridionale o mediterranea. Alcune frasi che scrive De Castro: il Brennero ci aspetta. Al di là di Bressanone comincia a salire la via che supera uno dei varchi più importanti della cerchia alpina. Affrettiamoci a dare un saluto ai castani e alle viti. Fra poco non ci si faranno innanzi che praterie e boschi di pini e sulle cime più eccelse diademi di ghiaccio e di neve. La vegetazione non muore al tutto mai, l'allettano questi orizzonti cristallini e fin nella fredda e triste valloncella in cui si trova la stazione del Brennero, il dorso dei monti ci si mostrerà vestito d'alberi e morbido d'erbe e stillante d'acque. Della qualcosa c'è la sua ragione, l'elevazione minore del Brennero a petto di ogni altra via che congiunge la Germania e la Francia all'Italia. Più avanti scrive ancora, dopo aver descritto un po' i tornanti, le curve, i tunnel della nuova strada ferrata, scrive: non fu lieve impresa condurre la vaporiera a tanta altezza in mezzo alle difficoltà create dall'Adige e dall'Isarco e più ancora da una montagna di porfido e di serpentina che si dovettero in molti luoghi aprir con le mine e con lo scalpello. Il disegno fu dato dall'ingegnere Etzel ed è una gloria tedesca. L'esecuzione fu opera quasi tutta di braccia italiane e molte furono le vittime, specialmente al passo della Chiusa, ove operò e morì l'ingegnere Rella, con molti operai, tutti italiani. E qua e là, lungo tutta la via, sin quasi ad Innsbruck, si trovano ancora tracce di questa operosa colonia di italiani in alcune iscrizioni mezzo cancellate, scritte in lingua italiana, e che fra pochi anni i turbini e le procelle delle Alpi avranno reso indecifrabili e poi invisibili. Parliamo del 1868-69. Quindi anche lui nota, no, questa dialettica tra i due mondi culturali, riconducendoli anche alle persone che concretamente hanno contribuito alla realizzazione della linea ferroviaria del Brennero, che rimane anche la ferrovia un oggetto simbolico di comunicazione tra il nord e il sud dell'Europa. Dal confine al confine, dunque, anche la letteratura abbiamo visto che mette in luce un Alto Adige che è plurale, non un Sud Tirolo monolitico come lo troviamo in certi approcci ideologici. Merano, da cui noi veniamo e di cui siamo ambasciatori, è nel Tirolo un'anomalia e al tempo stesso ne è la sintesi, cioè la sintesi di tutte queste cose che si incrociano. È anche un'anomalia perché è un luogo multiculturale come pochi. Ma già prima della Prima Guerra Mondiale, per esempio, lo scrittore Stefan Zweig coglie al meglio i contrasti e l'armonia dell'anima di Merano in relazione proprio al suo ruolo per tutto l'Alto Adige e per tutto il Tirolo. Scrive così: la città, antichissima, come rivelano i portici e i castelli, ha pure residenze nobiliari e nuove ville di buon gusto e quindi fonde passato e presente in un insieme gradevole. Bianca e tuttavia immersa nel verde di parchi e giardini pubblici, si estende gradualmente verso i prati e i vigneti, che a loro volta salgono verso le scure selve. Il nord e il sud, la città e la campagna, la Germania e l'Italia, tutti questi aspri contrasti si fondono placidamente e persino gli elementi più ostili sembrano qui concilianti e familiari. Questa è la visione di Zweig che, se vogliamo, fa sintesi di tutte le esperienze degli altri viaggiatori e delle altre persone che passano per l'Alto Adige e ne scrivono. Come già anticipato, noi abbiamo dato voce a persone non altoatesine, cioè che vengono da fuori, ci sono solo alcune eccezioni che, se necessario, possiamo giustificare. Una. Non solo una, c'è Kaser, Casa. La Gruber. Ah sì, la Gruber. E anche Zoderer. Però, diciamo, è un discorso lungo, ma se volete poi in privato possiamo anche dire perché questi tre ci sono. Comunque rappresentano l'eccezione, come dicevo, e tutti gli altri sono o persone che vengono da fuori o comunque scrittori da molto tempo, anche da secoli, ormai defunti. Direi che possiamo passare... Sì. Abbiamo scelto all'inizio quattro testi di autori diversi sulla città di Bolzano, perché essendo qui abbiamo deciso così, e poi spazieremo in altri luoghi. E iniziamo con il primo, prego, signor Marco. Il giorno dopo dormì a Pergine, dove ricevetti la visita di un giovane conte, un certo Dalberg, che era venuto a conoscenza, non seppi mai come, della nostra fuga da Venezia. Passai quindi a Trento e di là a Bolzano, dove, poiché avevo bisogno di denaro per comprarmi abiti e camicie, mi presentai a un vecchio banchiere di nome Menghi. Costui mi presentò un uomo fidato, che inviai a Venezia con una lettera di accompagnamento per il signor Bragadin, e poi mi sistemò in un albergo, dove rimasi a letto per 6 giorni, quanti ne occorsero al corriere per andare e tornare con una lettera di cambio di 100 zecchini al nome di Menish. Con quel denaro mi comprai alcuni abiti, ma prima, come era mio dovere, feci lo stesso per il mio compagno, che peraltro mi dava ogni giorno nuovi motivi di trovare la sua compagnia insopportabile. Continuava a dirmi che senza di lui non sarei mai riuscito a scappare e che dopo la promessa che gli avevo fatto gli dovevo la metà di tutto quanto avrei guadagnato. Si innamorava di tutte le serve che vedeva e siccome non aveva né il fisico né il viso per cattivarsele e per sedurle, in cambio delle sue galanterie riceveva solenni ceffoni che incassava con esemplare pazienza. E quello era il mio solo divertimento. Giacomo Casanova, storia della mia vita, Mondadori. Solo brevemente per dire cosa ci fa Casanova a Bolzano. Casanova, siamo nel 700, nato nel 1725, morto nel 1798, quindi molti anni fa, ecco, a metà di quel secolo, nel 1756, si trova agli arresti ai piombi veneziani, dove è detenuto per libertinaggio, e riesce a fuggire e si dirige verso Monaco. Andando verso Monaco si ritrova a Bolzano, non ha niente, è una persona evasa, non ha nemmeno i vestiti, e quindi si ritrova costretto, in suo malgrado, a rimanere 6 giorni a Bolzano. Arriva il mattino del 1 novembre e si presenta a un banchiere che conosce, che è Anton von Mentz, che lui cita con il nome di Mentz, ma si tratta di Mentz, e da qui scrive una lettera al senatore veneziano Matteo Bragadin, che gli deve un favore pregandolo appunto di sostenerlo finanziariamente. Poi racconterà di questo episodio nelle sue memorie. Anche questa è una testimonianza, se vogliamo un po' così, della comunicazione che a quel tempo avveniva tra le regioni che oggi chiamiamo in modo diverso. Allora era la Repubblica Veneta, qui era il Tirolo, oggi useremo probabilmente altre espressioni, però ecco, da Venezia si vada verso Monaco, succedeva nel 1756, succede anche oggi, per lo più magari intasando l'autostrada del Brennero. Sì, c'è solo forse da aggiungere il fatto che è moderno questo testo di cui abbiamo scelto un breve tratto, è moderno per due versi, per il primo perché ci dà un'idea, ci racconta come il traffico di denari a quel tempo funzionava tra un banchiere di Bolzano e un banchiere o anche un doge o anche un nobile veneziano, e questo funzionava effettivamente come oggi il Casanova forse userebbe il bancomat. Comunque a quel tempo c'era, non era così poi primitiva la cosa, perché aspettando 6 giorni non è che sia un mese, un anno aspettando i soldi, questo è già interessante. E la seconda cosa è da dire che il Casanova ci ha lasciato un'opera omnia molto interessante per la cultura del suo tempo. Sono 10 volumi scritti in maggior parte in lingua italiana, ma anche in lingua francese, di questi taccuini di cui è stato scelto questo testo. Ed è stato, a dir poco, non solo un libertino, come viene poi rappresentato anche nel Don Giovanni di Mozart, ma è stato anche un grande personaggio di cultura. Se si leggono questi taccuini ci si può accorgere anche di quello che il Casanova, di cui non discutiamo alcune cose, ma ha anche avuto questa parte sua. E adesso 30 anni dopo, prego. Preparai le mie valigie e alle 7 si ripartì. L'atmosfera aveva spazzato via le nubi e la serata si mantenne bellissima. Il postiglione si era appisolato ed i cavalli si slanciarono di carriera giù per la via ben nota, per riprendere poi un trotto più discreto ogni qualvolta arrivavano in piano. Allora il mio Auriga si risvegliava e giù colpi di frusta. Così con grande velocità e sempre fra alte rupi arrivai alle sponde del turbolento Adige. La luna qui apparve ad illuminare forme di giganti. Giunto verso le 9 a Sterzing, mi si fece comprendere che si aveva fretta di rimettersi in cammino. A mezza selva e alle 12 precise trovai tutti, tranne il postiglione, immersi nel più profondo sonno. Così procedemmo fino a Bressanone, dove si riprese il cammino, come sempre vertiginosamente, finché allo spuntar del giorno arrivammo a Colman. I postiglioni correvano veramente in modo da farci rimanere storditi, ma per quanto mi dispiacesse di percorrere queste regioni con una celerità spaventevole e quasi volando fra le tenebre, tuttavia in cuor mio salutai con piacere perfino un venticello che, soffiando favorevolmente alle nostre spalle, mi portava sempre più vicino alla mia meta. Allo spuntar del giorno scorsi i primi vigneti e incontrai anche una donna con pere e pesche. Si continuò così di gran trotto fino a Teutschen, dove arrivai alle 7 per rimettermi poi subito in cammino. E dopo d'aver preso un poco verso nord, scorsi finalmente, e il sole era già alto, la valle in cui giace Bolzano. Bolzano è tutta circondata da ardui monti, coltivati fino a una certa altezza, ma verso mezzogiorno rimane scoperta, mentre verso settentrione è protetta dalle montagne del Tirolo. Un'aria dolce e mite spirava in tutta la regione, in cui l'Adige ripiega di bel nuovo verso mezzogiorno. Al piede del monte le colline sono coltivate a viti. Tra i filari lunghi e bassi sono piantati dei pali e le uve brune pendono graziosamente dall'alto, maturando al calore del suolo sottostante. Anche al piano della vallata, dove del resto non vi sono che praterie, la vite è coltivata in lungo ordine di filari, mentre nel mezzo spunta il gran turco, il cui gambo ora si leva sempre a maggiore altezza. Ne ho visti spesso di 10 piedi, ma la pannocchia filosa qui non è ancora recisa, come si usa quando la fecondazione è già avvenuta da qualche tempo. Con un gran bel sole sono arrivato a Bolzano, dove le molte facce dei mercanti mi hanno comunicato una certa allegria. Qui la vita agiata e attiva si rivela con grande vivacità, Sulla piazza c'erano le fruttivendole con cesti sparsi e tondi di circa 4 piedi di diametro, in cui le pesche e le pere erano disposte in modo da non potersi schiacciare. Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, Rizzoli. Sì, il Goethe celeberrimo, ovviamente non starò a fermarmi o soffermarmi su quello che ha fatto o non ha fatto, è l'inizio un po' di questo viaggio in Italia, che poi è stato riscritto da Goethe, e qui parliamo del settembre 1786, che era il primo viaggio in Italia goetiano, 30 anni dopo quello inverso di Casanova, è l'inizio di questo viaggio durato quasi 3 anni. Il Goethe a quel tempo era già primo ministro nel Ducato di Turingia e Sassonia, a Weimar, e se ne andò così, fuggendo un po'. Ci sono molti motivi, sono discussi e descritti in libroni, si sa tutto di questo. E noi sappiamo anche abbastanza di quello che Goethe poi ha vissuto, ha osservato, ha scritto in Italia, soprattutto ovviamente da Roma in giù, perché Roma è stato il primo grande intervento letterario culturale per Goethe, non Venezia e non Firenze, su questo sarebbe da discutere, ma quello che legava l'interesse goetiano a quel tempo era l'antichità, e l'antichità rivisitata in Italia, ovviamente, da Roma poi fino in Sicilia. Però subentra per fortuna anche il nostro territorio, e come avete sentito il Goethe non viaggia di giorno ma di notte, e questo era un privilegio che poteva permettersi lui ed altri pochi commercianti che avevano molta fretta, perché si potevano locare le carrozze che da Kufstein o da Regensburg più o meno fino al confine del territorio di Venezia, della Serenissima, erano organizzate da una casata tirolese austriaca, i von Taxis, Turn und Taxis. E con questa organizzazione, questo commercio, i Turn von Taxis hanno fatto un sacco di soldi. C'è anche un castello in Val di Non, comunque adesso questo porta verso altri territori. Ritorniamo al Goethe. Ha viaggiato di notte, costava il doppio, però era anche molto veloce. E fino a Trento, che noi parliamo, questo inserto è dell'8-9, la notte dall'8 al 9 settembre, poi si è fermato 2 o 3 ore solo a Bolzano, non pernottando come molti credono nell'allora Gasthof zur Sonne, al sole, che era proprio più o meno all'incrocio fra Piazza Erbe e Via Museo, dove c'è oggi una lapide dietro alle bancarelle che non si nota, si deve cercare effettivamente, si ricorda un po' questo personaggio qui, Goethe, e ha avuto dei rinfreschi, ha osservato un po', oggi si direbbe ha bevuto un caffè, e poi ha ripreso il viaggio, e il primo pernottamento, o il primo anche soggiorno un po' più lungo, è stato a Trento il 10 di settembre, dove poi ha scritto ricordando questo viaggio da Karlsbad in Boemia fino a Bolzano. Cosa abbiamo sentito tra le righe, quello che interessava Goethe soprattutto qui, l'inizio di questa agricoltura molto più succulenta e molto più ricca che nella Turingia di quel tempo, come lui descrive le pesche, eccetera, queste cose, come se fossero oggi, perché si presentano anche oggi tutte belle messe lì in Piazza Erbe, è la stessa, diciamo, lo stesso tableau che Goethe fa. E poi era molto interessato, qui in questo testo non c'è, alla geologia, perché era anche un conoscitore delle scienze naturali, lui ha scritto anche di geologia e di altre cose, partendo dalle scienze naturali, e ha portato dei referti di pietre dalla bassa Tesina, quelle di Porfido, ma anche dal Brennero ritornando. E queste pietre con le scritture, le indicazioni del luogo e quando sono state trovate da lui, si trovano tutte a Weimar, nella casa Goethe, si possono trovare. E nel 99, quando io ho curato una mostra sui viaggi di personaggi dal nord verso l'Italia, a Castel Tirolo, abbiamo avuto per fortuna alcuni di questi referti. E anche un baule di viaggio dove c'era di tutto. E come testi lui usava il suo taccuino personale, perché il viaggio in Italia è già come un romanzo letterario, non ha più diciamo la immediatezza del taccuino, delle note, perché se si guarda il tragitto Alto Tesino, lui annota esattamente le ore dove si è trovato, a qualora, cosa ha speso. Tutto si trova in questo taccuino, e anche le prime descrizioni, però messe giù in fretta. E poi ha avuto delle guide per l'Italia che riportavano delle curiosità, ma anche delle indicazioni, dei timori, per esempio sull'Appennino, dei timori molto forti verso i banditi, eccetera. Queste cose, il banditismo a quel tempo era abbastanza in uso. E per cui il Goethe nel suo viaggio aveva anche una rivoltella, una piccola, però molto piccola, si trova anche a Weimar, la si vede. A quel tempo per i viaggiatori tedeschi o anche francesi da dove venivano venne consigliata un po' questa cosa. E basta, fin qui il viaggio in Italia di Goethe è tutto un altro discorso. E lì poi ovviamente c'è solo in Trentino stata questo intermezzo abbastanza burrascoso a Malcesine. Lui non ha fatto direttamente Trento-Verona, ma è passato dal lago di Garda a Torbolo, dove ha lasciato anche degli acquarelli e dei disegni, e poi Malcesine, dove Goethe aveva un passaporto falso. Si chiamava, a quel tempo si era messo un altro nome, Müller, Philipp Müller, e non si chiamava Goethe. Ci sono dei motivi per questo, che adesso non voglio, forse spendiamo troppo tempo. Comunque a Malcesine è stato arrestato perché si credeva fosse uno spione austriaco, e lì siamo già nella Repubblica, credo, di Venezia a quel tempo. È stato per una notte arrestato e messo nel castello di Malcesine, in prigione. Poi il giorno dopo lo hanno rilasciato, e questa è stata una cosa molto buffa e anche divertente. Bene, andiamo avanti con il prossimo testo. Siamo già nel XX secolo, nel 1914-15. Il piccolo gatto dall'aldilà. Sei arrivato. Non hai più visto tua moglie da un anno. Un anno di guerra di posizione senza cambio e vacanza. Alla fine quest'anno aveva cominciato a vacillare, a mettersi in salita, come la superficie del mare si solleva per il mal di mare. 38 gradi di febbre, 39 gradi, 40 gradi, ogni ora sempre più in su. Allora vieni portato e dondolato lievemente a 40 gradi di febbre, come su di uno specchio d'acqua rialzato, che hai visto contemporaneamente da sotto, dalla parte opaca, da dove la luce si rompe. Per giorni, settimane. Ora tua moglie sta tra gli alberi, oziosamente verdi, del viale che conduce alla stazione di Bolzano, dalla stazione di Bolzano a Piazza Walter. Ti ha aspettato e dice: Dio, la tua testa si è rimpicciolita. Alcuni passi più in là siete saliti su un'automobile che stava aspettando lì. Perché non alla stazione? L'auto appartiene al comando di cui farai parte. Viaggiare privatamente è vietato. Te l'ha prestata il tuo amico. Non lo hai più visto da anni. Tua moglie l'ha incontrato per caso a Bolzano. Lui ti ha portato qui, dove dovrai riprenderti. Ti ricordi della cosa in modo molto confuso. Non le avevi dato troppa retta. I telegrammi al comando dell'ospedale erano arrivati e andati. Richieste di informazioni sulla tua salute, l'ordine di rientrare qui, dopo la tua guarigione. Quando ritornarono, c'era il gattino. Stava sulla soglia della casa sotto il portico. Si ingobbì a mo' di benvenuto e si strusciò su gambe e gonne delle grandi creature stupite. Voleva entrare. Naturalmente fu accolto. Chi non accoglierebbe il gatto che cerca un tetto? Ma già l'indomani si dimostrò che forse si era accolto un piccolo bimbo, non un semplice gatto. Robert Musil, di Kleine Katze aus dem Jenseits. O anche di Geister Katze von Bozen. Questo è un testo non compiuto, rimasto molto breve lì, e si trova nell'ascito musiliano, non è mai stato a suo tempo pubblicato. E testimonia un po' il Musil, che era a quel tempo, come grado militare, comandante, ed era reduce di una presenza ai confini o al fronte austriaco-italiano, nelle zone di Folgaria, nelle zone, parliamo adesso di Caldonazzo Levico, le montagne di dietro, i sette comuni, voi conoscete quelle zone lì ovviamente, e dopo essersi ammalato è stato, lo hanno piazzato a Bolzano nella redazione di un giornale che era Die Soldatenzeitung, un giornale del comando militare austriaco, e Bolzano a quel tempo nel 1916-17 era guarnigione per il fronte meridionale verso l'Italia. Il Musil a quel tempo non era ancora l'autore dell'Uomo senza qualità, uscito nel 1930, aveva sì pubblicato un suo primo romanzo di Verwirrung in the Zögling Stirless nel 1906, adesso in italiano il titolo... I turbamenti del giovane autore. Grazie. Ma aveva pubblicato e scritto moltissimi racconti, anche saggi, e anche ha fatto traduzioni dall'inglese e dal francese. Però era ingegnere, questo non è del tutto casuale, perché si riversa un po' questa sua professione anche nei suoi testi. Comunque, un altro discorso, no? Di Geister Katze von Bozen è un testo non così facile da capire. Rispecchia un po' autobiograficamente queste settimane a Bolzano, dove Musil con la moglie Marta, che è andata a prendere in stazione, la moglie Marta qui c'è nel testo, ha allocato nella Kaiserkrone, nell'albergo, allora è un albergo, in piazza della mostra, esatto. Prima e dopo ha avuto un'abitazione nella villa Ernestine a Gries, una villa che si trova molto vicino alla casa di cura, adesso io so solo, scusatemi, Grieshof, ecco, lì vicina, è una villa privata, ed è stato un ricercatore giapponese a descrivere esattamente come ha vissuto lì, anche ha descritto anche quello che l'abitazione oggi è ancora, è stata cambiata ovviamente, però è rimasta la casa, c'è. Ecco, tutto qui, ovviamente il Musil a quel tempo era un patriota austriaco, questo lo si deve dire e sottolineare, come quasi tutti gli scrittori austriaci che hanno avuto anche un ruolo bellico nell'esercito austriaco fino agli anni 17 poi 18, e poi la questione ovviamente è cambiata del tutto. Qui ci sono queste cose ambigue, rimangono come sono, però questo racconto ha tutta un'altra psicologia e un'altra analogia se lo si legge tutto bene. All'ultimo testo di Bolzano. Bolzano, agio ad agio delle anime bottegaie che si comportano da mecenati B è la sede di tutto e l'orario degli uffici viene splittato in maniera talmente differenziata che per l'uomo di Sesto Vallelunga o la Valdivizze con la sua carta bollata, la corsa da un ufficio all'altro diventa uno strisciare sotto le forche caudine. Intorno a Piazza Verdi e anche su di essa vengono corrotti freschi ragazzi sarentini, in alcune osterie eleganti si piegano i tavoli degli incorreggibili reazionari ansiosi di correggere il mondo. La Voliera di Walter presenta crepe e è sede di svariate cose, mentre la cattedrale è la sede del Sacratissimo Cuore di Gesù. Il traffico scorre, scorre la droga, il talvera con il popolo che si ama sul letto erboso, spina nel fianco per il casto e pudico X. Bassi fondi, gentaccia senza faccia tollerata solo a mezzo orecchio dai commercianti, una villa sul Renon per i poveri disgraziati che fanno soldi a palate quando la conca di Porfido è soffocata dalla calura estiva. In compenso a B, d'inverno fa un freddo cane e di solito è sgombra da neve, collegamenti in tutte le direzioni, aeroporto, alti tassi di sciopero, ma questo vale più per gli italiani. Il tremendo ospedale in mezzo al baccano del centro e a San Maurizio il mostro vuoto. Da qui si governa, dittatura del capo luogo, non solo per via del gruppo Atesia, dittatura in tutte le bazzeccole. Qui impiegati con tenere dita palpeggiano l'attitudine dei tori da monta. Qui si svolge il mercato delle poltrone e vengono mercanteggiate le risorse umane della Terra Santa del Tirolo. Qui il popolo viene rappresentato e calpestato, abbindolato, ingannato, tradito e venduto per 30 monete d'argento da 500 lire. Prezzi alti con i piedi nella cacca di cane da panti a bancarelle di verdura che sembrano altari, premiazioni di ogni sorta. Cultura testa di Giano, qui terronica, là teutonica. Orientamento bilingue. Fiera all'insegna della genziana, poi con certo dei nostri amici pennuti e occhi su ghiaccio. Signori dei portici, signore confortaci, tasche gonfie, raganelle tronfie, dietro macchine da scrivere, raganelle che sputano addosso a urne. Avvocati, avvocatucci, esattori delle tasse, caccia e malviventi, superbanca rotte, supermercati con scale mobili, sottopassaggi seduttori, malvagi, aziende di trasporti pubblici indebitate e anche altre. Industria con lividi soldi dispersi terreni d'oro, violenza dei castelli d'intorno e della pietra dell'era fascista al centro, violenza della cultura nella broda dell'anima della RAI. Sofia esala il suo cuore di donna. Walter, incalzato da scorconi spirituali, non trova più pace nella sua presunta patria. B. Fine in Posui, 15-12-75. Norbert Kaser, Rancore mi cresce nel mente. Poesia e prosa, 1968-1978. Sì, grazie. Una lettura non molto facile. La signora Macon ha letto effettivamente come Kaser voleva dare il finale di ogni riga, con una partizione di riga all'altra. Ho notato che lei ha osservato il fatto. Questo brano, che è un Ein Stadtstich, com'è che si dice in italiano? Stadtstich, quadro cittadino su Bolzano. Kaser negli anni 70 collaborava per la pagina tedesca dell'Alto Adige. In quel tempo nell'Alto Adige c'era una pagina in tedesco e lui era collaboratore fisso negli anni 70 per questo giornale. E il caso che voi forse conoscete come poeta e scrittore altoatesino, non abbiamo potuto dire di no al nostro impeto e abbiamo inserito questi quadri di città, anche perché prima di finire il nostro volume è uscito questo volume di traduzioni in italiano di quasi tutte le poesie e di testi in prosa di Kaser. E se avete sentito attentamente, soprattutto quelli della mia età, ovviamente riconosciamo alcune cose che Kaser qui descrive, o anche descrive in modo molto ironico, però simboleggiando un po'. perché faccio solo alcuni esempi. C'è scritto qui, parla dei prati del Talgara. Negli anni 70 il comune di Bolzano volle dare ai cittadini di regalare un po' questi prati sui Talgara. C'è stato soprattutto un redattore del Dolomiten che a quel tempo per mesi interi ha combattuto contro questa idea, parlando di droga, parlando di sesso, parlando di tutte le cose che, e per fortuna non ebbe ragione. E lui questo, quando dice spina nel fianco per il casto e pudico X, perché questo redattore giornalista firmava con una X, ed era il signor Rampolt, che adesso non vive più. Poi parla, per esempio, lui ha vissuto ancora all'ospedale, come alcuni di noi, anche in mezzo alla città dove adesso c'è l'università, dove c'era il museum per anni, adesso l'università, e parla dell'ospedale a San Maurizio vuoto. E effettivamente per anni era rimasto vuoto dopo essere edificato. Per esempio parla della casa di cultura di fronte al palazzo dell'amministrazione del Land Tesino, parla di Walter von der Vogelweide e della statua, e alla fine dice: Walter incalzato da scrocconi spirituali, perché lì prendono, ci sono molte guide anche culturali lì che si fanno lì, non trova più pace nella sua presunta patria. Effettivamente fino ad oggi non si sa dove Walter sia nato, non si hanno documenti di nessun tipo, e il bello è che però si è stata fatta nel 1888 questa statua dall'Istituto di Germanistica dell'Università di Innsbruck, dove si è cercato in tutti i modi di dimostrare che Walter sia di nascita sudtirolese. Ovviamente fino ad oggi questo non si sa. Comunque il monumento è lì, che poi più tardi si è fatto un monumento a Dante a Trento, che guarda verso nord e Walter guarda verso sud. E così il testo di casa non è così semplice, però è un testo geniale, perché nella sua prosa letteraria, quasi lirica letteraria, e lui è stato soprattutto un grande poeta di lirica, effettivamente descrive la situazione degli anni 70, la situazione effettiva degli anni 70, questo bilinguismo, con questo essere divisi, eccetera. È stato un po' un cheval de bataille per tutta la vita di Norbert Kaiser. Prego. Sì. Dunque, noi abbiamo inserito nel libro sia Walter che Dante. Sì. Un giorno sono stato a Brunico, nell'Italia del Nord. C'era lo sciopero della nettezza urbana. Ebbene, i brunicensi, ma si chiameranno poi proprio così, avevano deposto le loro immondizie secondo una precisione eccezionale. Tutti i pacchetti avevano la medesima grandezza e stavano a uguale distanza l'uno dall'altro. Non uno che si trovasse fuori posto. Purtroppo però non avevo con me una macchina fotografica per poterli immortalare. Mi si dice inoltre che in alcuni quartieri di Lugano, abitati da quasi tutti i napoletani, non si vede in giro un pezzo di carta straccia, quasi a dimostrare che non è l'individuo a creare il disordine, ma è l'ambiente a favorirlo. Detto in altre parole, se mi trovo in una strada cosparsa di cartacce, non ci penso su due volte, ne butto una pure io. 70 anni fa la situazione era diversa, e non per merito dei napoletani, che in pratica erano gli stessi, ma dell'immondizia che non c'era. Era quasi una rarità. Ogni giorno, ciascuna famiglia depositava fuori della porta di casa un involtino di carta, la plastica non era ancora stata inventata, con tutti gli avanzi del giorno precedente. Poi, di prima mattina, passava un brav'uomo, da noi chiamato Munnezzaro, che lo metteva in un sacco e se lo portava via. Luciano De Crescenzo, Il caffè sospeso, Mondadori. Diciamo che è una descrizione con toni etnografici in qualche modo sia della nostra realtà, ma anche considerazioni poi che vanno oltre, quindi questo essere napoletani però a Lugano, questo approdo a Brunico nell'Italia del Nord. Non ho mai sentito questa definizione, Brunico nell'Italia del Nord. E i brunicensi, che effettivamente si chiamano brunicensi, azzecca la definizione. E ecco, qui vediamo proprio questo approccio molto italiano, nel senso di chi viene dal resto d'Italia e vede le nostre città, in modo particolare quando usciamo da Bolzano, ma anche Bolzano, e riconosce queste città come molto ordinate, molto pulite, eccetera. Quante volte ce lo siamo sentiti dire da chi viene a visitarci. E poi questo accenno appunto al fatto che alla fine però non si tratta di essere altoatesini o napoletani, ma si tratta di essere più o meno abituati a comportarsi in un certo modo, oppure di essere più o meno inseriti in un contesto che favorisce un comportamento piuttosto che un altro. Ecco, comunque questo l'abbiamo scelto anche, naturalmente adesso non vogliamo fare un paragone, non facciamo paragoni a livello, diciamo così, di qualità letteraria tra un Goethe, un De Crescenzo o altri che abbiamo nel nostro libro, perché non era questo il nostro scopo. Il nostro scopo era raccogliere diverse voci di diversa provenienza, di varie epoche, che riuscissero a darci una piccola chiave di lettura di questo territorio. Nell'introduzione oltretutto facciamo riferimento al titolo del libro, Il caffè sospeso, che è anche un'abitudine napoletana che in qualche modo però viene trapiantata anche da noi. Adesso parlo come direttore della Caritas: se venite nel nostro Caritas Caffè, all'ingresso troverete il caffè sospeso, quindi chi vuole può lasciare un euro e con quell'euro verrà poi dato un caffè a chi si presenta. Ogni tanto qualcuno si presenta senza avere i soldi per pagarlo. È un'abitudine napoletana trapiantata nell'ordinatissimo Alto Adige. Ah, io ce l'ho, grazie. La solita gente delle città che vengono qualificate dal bel mondo quali luoghi di soggiorno e di cura. Invece di curarsi, la gente spesso vi si ammala, perché lì mangia di più, stravizia di più, si gioca d'azzardo a rotta di collo. Lì si vede lenti e goffi trascinare il peso del loro corpo, faticosamente comici, umoristici senza volerlo, come le tartarughe. Girano, come le tartarughe, lento e rugoso il collo, di qua e di là, muovono il torbido sguardo, lo gettano sopra le belle cose, i bei fiori e le magnifiche passeggiate della città. Allora la passeggiata appare come un immenso quadro vivo di Peter Bruegel, con i suoi, in fondo, soliti, storpi, ciechi e paralitici. So bene che la gente di Merano incominciò ad osservarci, e quando si è osservati le cose non finiscono mai bene, perché, ripeto, il mondo non guarda per amore, guarda per invidia, per astio, per risentimento, ira di non poter farle uguale. Sembrò in un certo momento che non esistessimo che noi, nelle conversazioni della città, a dare sull'occhio a indigeni e forestieri. Partire era la miglior cosa da un luogo dove io non vedevo che Anna, che senza di lei ogni cosa cadeva come in un teatro al termine della rappresentazione. L'acqua del Passirio, l'acqua che di gennaio si disgela e corre sotto il ghiaccio, il picchio che archeggia sopra il fiume, il contadino che pota il melo ed altre cose belle, come mi erano sembrate in compagnia di Anna, ora le vedevo come fossero lo scheletro di se stesse. Sprovviste d'amore non mi piacevano più, ed anzi mi accorgevo che venivo guastando in me quanto avevo edificato passando per le rive, per i boschi, per gli antri, insieme ad Anna Stickler. Luigi Bartolini, vita di Anna Stickler, Avagliano Editore. Thank you. Siamo ritornati a Merano. L'autore Luigi Bartolini. Luigi Bartolini è un artista, soprattutto incisore, pittore, però anche scrive alcuni romanzi. Uno, forse il più famoso, si intitola Ladri di biciclette, famoso soprattutto perché da questo romanzo fu tratto un film da Zavattini e De Sica. Cosa c'entra Bartolini con Merano? Anche questa è una storia che è già stata raccontata, ne ha scritto in modo particolare Carlo Romeo. Bartolini si trova a Merano per 5 anni, dal 1933 al 1938, e precisamente non per sua libera scelta, ma per confino di polizia. Viene mandato qui dal regime fascista, diciamo, perché è una persona non del tutto sotto controllo dal punto di vista politico, e per i suoi contatti con alcuni espatriati in Francia. Quindi 5 anni semplicemente in questa, chiamiamola, prigione dorata di Merano. Di per sé Merano può muoversi, può fare quello che vuole. Per 5 anni lavora, produce molte opere e fa anche l'insegnante in quello che allora era l'Istituto Tecnico Inferiore Principe di Piemonte. Anche qui, facendo ricerche proprio sulla storia di Merano, mi sono imbattuto in alcuni registri scolastici firmati proprio da Luigi Bartolini. Di questa esperienza meranese, in cui incontra questa Anna, scrive nel 1943, quindi alcuni anni dopo, in questo romanzo Vita di Anna Stickler. Ci sono anche delle poesie su questo periodo, poesia ad Anna, che sono di qualche anno precedenti il romanzo, e qui ci sono diverse descrizioni non solo della storia sua e di Anna, ma anche del contesto in cui questa storia si svolge, e quindi questa descrizione della Merano anni 30 un po' simile, devo dire, alla descrizione che ne fa Caser, no? Quindi come una specie di cronicario, perché voi sapete che Merano, soprattutto in certi periodi, si è sviluppata proprio come luogo di cura e luogo dove riprendersi da determinate malattie, soprattutto malattie respiratorie, e con un turismo molto anziano, per così dire. Oggi le cose sono un po' diverse, però ecco, in quel periodo sicuramente era questo il contesto in cui si muoveva Bartolini, e lui in questo contesto si sente gli occhi di tutti addosso, perché appunto ha questa storia con questa ragazza, con questa Anna, e ha l'impressione che tutti lo guardino. Poi è interessante, secondo me, anche quest'ultima parte che abbiamo sentito leggere, in cui il contesto, il luogo in cui lui si trova cambia nel momento che viene meno la relazione con Anna, quasi che anche tutti i luoghi in cui noi passiamo, in cui noi viviamo, abbiano un significato non tanto per quello che rappresentano in sé, ma per i sentimenti con i quali camminiamo per quelle strade, entriamo in quegli edifici, attraversiamo quei ponti. Quando vengono meno queste relazioni, anche tutto il resto diventa un po' uno scheletro spoglio. Se mi permettete ancora, così chiudo poi il mio, non dirò più niente, farò parlare solo Ferruccio, ritornerei a Stefan Zweig, che parla sempre di Merano, perché abbiamo detto che il percorso finisce a Merano, e quindi da meranese vorrei chiudere proprio con queste frasi tratte dallo scritto Herbstwinter in Meran. Qui le stagioni sono sorelle, come in un vecchio quadro, adorne di allegorie variopinte e frutta. Si trasformano e consentono il miracolo di poterle incontrare unite. Questo è il primo mistero della bellezza meranese, l'inimicizia col vento. E il secondo è la sua viva amicizia col sole. Merano vive della luce. Lo si sente tanto più fortemente in un giorno di pioggia, quando tutti i suoi tratti si sciolgono come in lacrime e la lontananza copre il suo capo di nuvole. I colori allora hanno una luce opaca, come attraverso un vetro smerigliato. Le persone, con i loro costumi vivacemente policromi, si nascondono nelle case. Il senso delle ore si è perso, non si ritrova più il legame interiore con la bellezza fino a ieri così vicina. Merano vive solo nella luce, perché il sole qui ha un potere raro, quasi mitico. Conta le ore, ripartisce la giornata, nutre i malati di speranza e i frutti di sangue caldo. Grazie Paolo, che è stato lui a tradurre questo testo poco conosciuto di Stefan Zweig, perché è uscito prima per una rivista e poi in un volume di saggi e di racconti. Ed è un finale bellissimo alla nostra serata. Io non ho più nulla da aggiungere. Se avete interesse, guardate il libro. Ci si può avventurare, no? Avventurare. Sì, ho detto la parola giusta, scusate. In personaggi, in paesaggi, in sorte di polemiche come quella di Claudio Magris, che è abbastanza dura verso la letteratura altoatesina, soprattutto, anche questo c'è, ma anche nella lettura di pezzi storici, forse meno conosciuti, anche autori come nuovi, come Henri De Luca, che ha scritto molto sul nostro territorio, il primo romanzo della Melandri, il romanzo, il penultimo della Lili Bruba, anch'esso in originale italiano ovviamente, e poi tradotto in tedesco, eccetera, eccetera. Grazie per la vostra attenzione. Paolo Rumiz. Scusi, vorrei dire una breve cosa anch'io. Ho ascoltato con interesse quello che diceva Stefan Zweig a proposito di Merano, perché non ho sentito menzionare un elemento che mi sarebbe sembrato molto pertinente, ricordando la storia e la sofferenza di Stefan Zweig, cacciato di fatto dalla cultura e dall'ambiente in cui era vissuto, che a Merano poteva ritrovare almeno in parte. Io quando vado a Merano, che amo molto per vari motivi, l'elemento che noto immediatamente e che è unico in tutto il Tirolo, che è peraltro piuttosto unico quello che distingo nelle sue esteriorità, è l'aspetto austro-ungarico, cioè la Mitteleuropa è un piccolo frammento unico in tutto questo territorio, piuttosto, se mi è consentito dire, culturalmente monotono, è l'unico elemento che distingue una città e ci faccia ricordare il grande respiro del grande impero. Allora a Merano le è consentito vedere una chiesa protestante, rarità estrema, le è consentito vedere dei bellissimi edifici costruiti anche per il godimento della gente, rarità estrema. Allora, ecco, allora questa grande cultura dell'impero austro-ungarico, che giustamente il cui ricordo strazia Stefan Zweig, che è facile da capire, non viene, mi pare strano, ricordato e messo in evidenza nelle sue memorie. Quando si parla di differenza tra Germania e l'Italia, ma lasciamo stare la Germania, che non c'è, a mio modesto avviso, non c'entra, a Merano non c'è, ci sono altri elementi, quello locale, come hanno detto, è sempre lo stesso, e però veramente questa bellezza, bella, bellissima eredità di garbo e di eleganza e di multiculturalità che ha lasciato il grande impero ovunque si sia manifestato, vediamo Trieste, che cosa è. Più certo. Naturalmente quando Zweig parla di Germania non intende la Germania in quanto paese, ma l'area di lingua tedesca, diciamo così, e quando parla d'Italia anche non parla del allora Regno d'Italia, perché qua diciamo Zweig è a Merano nel 1909-10, no? Sì. Quindi parla, diciamo, la sua... No. Bartolini era nel 30. No. Sì. Poi Zweig scrive le sue opere negli anni 30, eccetera, però questo scrive subito dopo la prima guerra mondiale, ma facendo riferimento al suo soggiorno del 1909-1910, dove appunto è dentro nella Merano asburgica. No? Oltretutto una Merano non è solo asburgica, per esempio è anche una Merano in cui l'elemento ebraico è molto presente, e è presente non in quanto ebraismo ma in quanto cosmopolitismo, perché la comunità ebraica a Merano, in modo particolare all'inizio del Novecento e ancora fino a tutti gli anni 30, fino alle leggi razziali di cui ricordiamo quest'anno gli 80 anni, è una comunità plurinazionale, si contano decine di nazionalità all'interno della comunità ebraica che ha un ruolo importante nello sviluppo di Merano, sia dal punto di vista culturale come anche dal punto di vista architettonico e artistico. No, quindi questa è la Merano che incontra Zweig, e lui sottolinea proprio questa compresenza però armonica delle differenze, no? Certo che Merano si pone poi in contraddizione con il resto del Tirolo, no? È quello che dicevo prima, Merano è l'anomalia del Tirolo, ma è al tempo stesso la sintesi del Tirolo, perché anche il resto del Tirolo, se noi usciamo dall'ideologia nazionalistica, è una regione che è nata a suo tempo, già ai tempi di Mainardo e dei suoi predecessori e successori, è nata come regione sul confine, cioè per aprire, chiudere il confine nell'ottica di un passaggio, non di una chiusura, perché l'ottica era quella del passaggio da nord a sud, e lo sviluppo e la fortuna del Tirolo è quello di essere sul confine, e proprio Merano a quel tempo si sviluppa come capitale del Tirolo, perché si trova sotto il castello dei Conti, ma è una Merano in cui già c'è l'Europa, perché abbiamo gli italiani, i fiorentini che si occupano della moneta, no? Moneta che poi per secoli rimarrà e circolerà, no? Abbiamo dalla Baviera gli artisti, abbiamo, diciamo, da tutta Europa persone che vengono a Merano e poi indirettamente anche nel resto del Tirolo, quindi non è un luogo di chiusura, è un luogo di apertura fin dalla sua nascita, fin dallo sviluppo. Poi ci saranno anche lunghi secoli di cui Merano sarà la bella addormentata del Tirolo, diciamo almeno dal 400 all'800, e poi c'è questa rinascita in una nuova veste, la città di cura, che di nuovo catalizza su di sé molte persone che provengono in questo caso soprattutto dalla Mitteleuropa, no? E quindi c'è questo sviluppo che vediamo oggi ancora nell'architettura soprattutto delle zone di Merano, che vanno dalla stazione fino, diciamo così, al Kurhaus, no? E poi abbiamo questo Kurhaus anche un po', diciamo, visto che siamo nel centenario della guerra, no? Che poi sarà un momento di svolta, abbiamo questo Kurhaus che viene, quello nuovo, stile Jugendstil, che viene completato nel 1914, no? C'è la data, no? E subito dopo scoppia la prima guerra mondiale, tanto è vero che la prima cosa che viene fatta dal cupolone del Kurhaus viene scoperchiato e verrà tirato via il rame, che servirà poi per motivi di guerra, poi sarà rimesso a posto successivamente. Tanto per dire come la guerra, no? Poi sarà il motivo che farà tramontare questo mondo, non solo a Merano, ma alla fine in tutto l'impero. Ha lasciato delle tracce vistose che consentono di distinguere Merano da tutto il resto. Sì, ma noi adesso qua non volevamo fare troppa pubblicità per Merano. Per quello che riguarda Stefan Zweig, lei ha sottolineato due cose importantissime. Non so se lei abbia letto questa autobiografia di Stefan Zweig, anche tradotta in italiano, Il mondo di ieri, sì. Ed effettivamente alcune cose che lei ha raccontato mi ricordano molto alcuni tratti di questa autobiografia. Effettivamente Stefan Zweig è un personaggio fra le epoche un po', però molto legato a questa grande cultura, chiamiamola oggi mitteleuropea, a quel tempo si usava meno, austro-ungarica, ma anche in più, perché lui lavorava a Parigi e a Londra, era un grande europeo, a dire la verità, e traduceva per esempio dal francese, traduceva dall'inglese, aveva le facoltà di farlo per anche una sua spiccata educazione a queste cose. Collaborò con molti giornali, ma anche con case editrici molto rinomate, curava delle collane di libri per la casa editrice Insel a Lipsia, bellissimi volumi, e di tantissime cose, autore di biografie interessanti, per esempio sulla Maria Antoinette, adesso non mi viene più il nome, scusatemi, Fouché e Pasteur, per esempio, un grande biografo anche del suo tempo. E il finale di questa vita torturata, perché poi dagli anni 30 lui era in esilio continuamente e ha perso una gran parte anche dei suoi beni. Pensate che Stefan Zweig, a quel tempo, prima dell'inizio del grande terrore, fu uno dei grandi collezionisti, non solo di spartiti musicali, aveva Beethoven, aveva Mozart, aveva per esempio la scrivania beethoveniana, ma anche di tantissimi, aveva dei papiri, per esempio molto antichi, dei testamenti non quelli ufficiali ma apocrifi. C'è tutta una tradizione delle scritture molto antiche, apocrife, che non fanno parte adesso della parte del Vecchio Testamento ufficiale, eccetera, eccetera. E fino ad oggi purtroppo l'archivio zweigiano si trova a Salisburgo, è tornato lì post mortem, ed è morto a Petropolis, vicino a Rio de Janeiro. Perché ha vissuto gli ultimi anni in Brasile, aveva un timore, un panico verso quello che era l'espansione nazista nel mondo, e quando è stato visto un battello militare tedesco che non faceva parte adesso di un gruppo d'assalto in Brasile al largo di Rio de Janeiro, ha deciso di togliersi la vita, purtroppo anche per la sua seconda moglie, questo è un altro discorso, ed è morto così lì in Brasile, un Brasile che però lo onorava moltissimo, non è che sia stato in un esilio sconosciuto Stefan Zweig, no, anche questo. Comunque grazie per il suo intervento. Okay.